l'alfabeto del risparmio. Le scelte per ripartire. Un saluto da Deborah Rosciani e da Mauro Meazza. Eccoci alla seconda puntata del nostro Alfabeto del Risparmio. Lo ricordiamo, questo è un podcast originale a cura di Radio 24 in collaborazione con il Comitato per la Programmazione e il Coordinamento delle Attività di Educazione Finanziaria. È un percorso che ci porta nel cuore di ottobre 2020, mese dell'educazione finanziaria, ricco di iniziative che puntano ad accrescere le conoscenze di base sulla gestione e la programmazione delle risorse finanziarie personali e familiari, iniziative promosse su tutto il territorio nazionale. In ogni puntata ripassiamo insieme questo alfabeto per mettere a fuoco gli strumenti e i passi da compiere utili a colmare le piccole o grandi lacune con cui ci si scontra ogni giorno quando si tratta di gestire il proprio denaro, e in modo particolare in questo periodo, questo 2020 così delicato di emergenza sanitaria ed economica. Da quale lettera partiamo questa volta? Partiamo dal principio, che in questo caso però non è la lettera A, ma la lettera F come finanza. F come finanza. Cos'è la finanza? Per rispondere può bastare un buon dizionario, ma se si tratta di imparare a conviverci, ovvero avere un'educazione finanziaria, allora servono molte più parole e potrebbero non bastare. Perché il complesso dei fatti o atti con cui un soggetto si procura i mezzi per realizzare i propri fini, la definizione del dizionario appunto, entra nelle nostre vite a vari livelli, da quelli più semplici delle compravendite in contanti a quelle più delicate dei grandi impegni come acquistare una casa. Ed è ormai dimostrato che prima si comincia a capire i meccanismi, meglio ci si potrà muovere e magari, se necessario, difendersi da qualche brutta sorpresa. Sul portale del Comitato Nazionale per l'Educazione Finanziaria, nella sezione Quello che conta sapere nell'emergenza, uno spazio è dedicato a quel che serve per insegnare ai giovani e ai giovanissimi l'ABC della finanza. Una pagina che da quellocheconta.gov.it rimanda a schede, video, materiali didattici, tra i quali quelli predisposti dalla Banca d'Italia nel suo progetto L'Economia per Tutti. Tra le risorse messe a disposizione, anche volumi per studenti e docenti, nelle versioni per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo grado. Scaricabili gratuitamente, illustrano temi come reddito e pianificazione, moneta e prezzi, pagamenti e acquisti. Perché una buona educazione finanziaria è un vantaggio da conquistare il prima possibile. Nella scheda è stato citato il portale della Banca d'Italia, economiapertutti.bancaditalia.it. Si tratta sicuramente di un punto di partenza molto utile, ricco di spunti per chi vuole consolidare le proprie competenze sui temi finanziari, prendere un po' di confidenza. Magda Bianco è la responsabile del Dipartimento Tutela della Clientela ed Educazione Finanziaria di Banca d'Italia ed è anche l'esperta del Comitato per la Programmazione e il Coordinamento delle Attività di Educazione Finanziaria. Protagonista, Magda Bianco, di questo secondo episodio del nostro podcast, ci spiega con qualche dettaglio in più quali sono i contenuti e gli intenti di questo portale. L'Economia per Tutti è pensato sia per il grande pubblico, per tutti, e quindi speriamo che sia sufficientemente interattivo, dinamico. Ci sono dei giochi, ci sono delle pillole video, ci sono appunto strumenti interattivi, consigli semplici per tutti, ma c'è anche una parte che è dedicata al mondo della scuola, per i ragazzi, per i giovani e soprattutto per gli insegnanti, perché noi da molti anni lavoriamo nelle scuole con i docenti, ma dall'anno scorso abbiamo rinnovato completamente i nostri materiali, abbiamo appunto dei nuovi materiali didattici molto più interattivi, con due percorsi, uno per i docenti e uno con cui i docenti lavoreranno nelle scuole sui ragazzi. Sono più interattivi e consentono di costruire dei percorsi, pensiamo, pedagogicamente strutturati, e a breve avremo anche un mini sito più interattivo di supporto. Però durante il lockdown abbiamo anche iniziato a creare dei percorsi per l'insegnamento a distanza. Abbiamo iniziato dalle superiori, con un metodo che è sempre orientato a fornire ai docenti del materiale di supporto per costruire un percorso, quindi non è un materiale che si prende e si guarda e basta, serve per costruire un percorso. Un esempio, abbiamo un percorso che riguarda i pagamenti elettronici online, che sono in questo periodo naturalmente un tema molto caldo. Lì abbiamo un po' di informazioni di base,